Un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori da parte di Diego Manetti, un ben ritrovati sulle frequenze di Radio Maria per il consueto appuntamento con Oltre la vita eterna spiegata a chi cerca. Stiamo percorrendo un cammino tematico attraverso quelli che sono i novissimi e la volta scorsa abbiamo praticamente quasi concluso l'esposizione del Purgatorio che, a onor del vero, non compare esplicitamente tra i quattro novissimi che solitamente vengono citati catechismo alla mano, ovvero la morte, il giudizio, l'inferno e il paradiso. Ma come abbiamo avuto modo di vedere, il purgatorio potrebbe essere considerato una sorta di anticamera del paradiso, quindi fa parte già di quello stato di salvezza, in cui però è richiesta, abbiamo visto, una purificazione dell'anima che si prepara a incontrare il Signore. E adesso, avviandoci alla conclusione, voglio affrontare la domanda che ho messo a tema per questa conversazione. In cielo ritroveremo i nostri cari. Parto da un'affermazione per rispondere a una domanda che spesso viene fatta quando si pensa ai nostri cari che sono in purgatorio. Cioè, quando andremo in purgatorio, potremo incontrare i nostri cari che si trovano là? Questa è una domanda che è necessario farsi perché prima ancora di parlare dei nostri cari che sono in paradiso, sapendo che la sorte della maggior parte delle anime, una volta morte, è di passare attraverso questa purificazione, appunto il purgatorio, beh, è lecito chiedersi se già in questo stato sia possibile incontrare i nostri cari. Abbiamo spesso soffermato l'attenzione, parlando del purgatorio, sul desiderio che ogni anima prova nei confronti di Dio. In fondo la relazione tra l'anima e Dio sembra essere quella fondamentale. Basta ricordare che il destino di ogni anima è quella di diventare sposa dello sposo, di incontrare in eterno quell'amore unico e perfetto, entrando nella comunione della Santissima Trinità, che l'ha attesa fin dal principio dei tempi. E allora perché interrogarci sul rapporto con i nostri cari? Perché siamo esseri sensibili, perché siamo esseri in relazione anche durante il nostro pellegrinaggio terreno, durante questa vita, e perché, a dire il vero, è la domanda che più spesso mi viene rivolta. Ed è una domanda che ha una sua pertinenza, un significato, è pienamente giustificabile. Anzi, devo dire che quando comincio qualche catechesi pubblica sul tema dell'aldilà, della vita eterna, dell'oltre, non parto mai parlando anzitutto della bellezza che sarà incontrare il Signore, ma parto dalla domanda che faccio a tutti i presenti: quanti di voi hanno perso una persona cara e non vedono l'ora di incontrarla? E allora si vede che, pur attraverso la debolezza della fede e l'incertezza del cammino quotidiano di ogni credente, in fondo questa è la speranza di ciascuno, almeno incontrare i propri cari. E forse mi direte, non viene rispettato il corretto ordine tra l'amare Dio al di sopra di tutto e poi il nostro prossimo, è vero, ma penso che Dio, nella sua misericordia, si accontenta, se mi passate l'espressione, di partire intanto da lì. Cioè di vedere come in ogni anima c'è un desiderio di al di là, anzitutto dettato dal desiderio di incontrare i propri cari. E certo che poi da questo desiderio imperfetto siamo chiamati con la grazia di Dio a elevarci a quello che è il desiderio perfetto, cioè desiderare la salvezza dell'anima a gloria di Dio. Desiderare cioè di entrare nell'eternità beata, anzitutto per poter rendere gloria alla Santissima Trinità e conseguentemente, ma non come primo motivo, incontrare anche i nostri cari. Ma torniamo dunque alla questione sull'incontrare i nostri cari in purgatorio. Sarà possibile? Non è facile rispondere a questa domanda, però posso precisare alcuni elementi che io penso ci aiuteranno almeno a ipotizzare una soluzione. Anzitutto dobbiamo ricordare che la condizione delle anime che si trovano in purgatorio è una condizione di sofferenza reale, non di beatitudine. Perché sofferenza? Perché queste anime desiderano, anelano ardentemente a raggiungere Dio, avendo in questo momento raggiunto la piena consapevolezza che per Dio sono state create. E senza creatore nessuna creatura può essere felice. A questo proposito, giova ricordare quanto scrive il Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 27. Il desiderio di Dio è iscritto nel cuore dell'uomo, perché l'uomo è stato creato da Dio e per Dio, e Dio non cessa di attirare a sé l'uomo, e soltanto in Dio l'uomo troverà la verità e la felicità che cerca senza posa. Ecco, potremmo dire che questa affermazione è molto forte, non parla soltanto del cuore dei cristiani, ma dice che ogni uomo è creato da Dio e per Dio, e senza Dio non c'è felicità. Tanti slogan ci ricordano questa grande verità: chi a Dio non manca di nulla. È proprio vero. In fondo potremmo anche dire che se Dio è amore, chi fa l'esperienza di Dio che è amore perfetto non manca di nulla. E questo articolo, il numero 27 del Catechismo, cita al proprio interno il numero 19 di Gaudium et Spes, che così dice: la ragione più alta della dignità dell'uomo consiste nella sua vocazione alla comunione con Dio. Fin dal suo nascere, l'uomo è invitato al dialogo con Dio. Non esiste infatti se non perché creato per amore da Dio, da lui sempre per amore è conservato. Né vive pienamente secondo verità se non lo riconosce liberamente e se non si affida al suo creatore. Questo è un punto molto importante proprio per ribadire quanto detto in apertura. Anzitutto, l'anima dovrebbe tendere come suo desiderio naturale di pienezza e di felicità a ricongiungersi al creatore. E peraltro questa sottolineatura della vocazione alla comunione con Dio è molto importante perché spesso quando si obietta alla differenza sostanziale che intercorre tra uomini e animali, si dice: ma in fondo anche gli animali hanno una certa intelligenza, in fondo anche gli animali sentono, provano emozioni e via dicendo, si smarrisce la caratteristica fondamentale che è la libertà. E questa libertà nell'uomo dove entra in gioco? In maniera particolare, in maniera specifica, proprio nel rendere l'uomo capace di rispondere a una chiamata, la chiamata che Dio rivolge ad ogni uomo affinché entri in dialogo d'amore con lui. E questa è una chiamata che non viene rivolta, ad esempio, alle creature animali. Certo, Dio è creatore di tutto ciò che esiste, del cielo, della terra, della luna, di tutti gli oceani, le montagne, di tutti gli esseri viventi, dal più piccolo, batterio fino ai dinosauri estinti, piuttosto che gli elefanti, ma a nessuno di questi elementi è dato quello specifico dono che invece è offerto all'uomo, essere chiamato a entrare in comunione d'amore con Dio stesso. Ecco perché San Tommaso d'Aquino, quando parla dell'anima e della salvezza di un'anima che viene introdotta nell'eternità beata da Dio, afferma che sì, il creato è qualcosa di grande, ma una sola anima che si salva è ancora più grande. Ecco perché quando Gesù dice il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno, non si riferisce soltanto al valore eterno della sua parola, che è legge eterna, ma il fatto che nell'anima immortale dell'uomo la parola, che è parola di vita, che è Dio, vive per sempre. E questa parola dice che c'è un dialogo d'amore, una relazione di reciprocità tra l'uomo e Dio, ognuno secondo la propria natura, secondo la propria misura, che non intercorre tra Dio e nessun'altra creatura. Ovviamente, esclusi gli angeli che hanno avuto questa chiamata fin dal primo istante. Ora, ai veggenti di Medjugorje, tornando proprio al tema dell'aldilà, la Madonna ha concesso un privilegio. Siamo nei primissimi tempi delle apparizioni che hanno avuto inizio il 24 giugno 1981 nella ex Jugoslavia, quindi oltre 40 anni fa. Il privilegio concesso ai veggenti è stato quello di vedere l'aldilà. Addirittura due di loro, Jacob e Visca, hanno avuto un'esperienza mistica straordinaria, che è aver compiuto un vero e proprio viaggio nell'aldilà. Tra le tante testimonianze, a mio modo di vedere, molto toccante è quella di Maria, che ha affermato: poi abbiamo visto il purgatorio. Lì non abbiamo visto le persone, ma abbiamo sentito le loro voci. La Madonna ci ha detto che le persone che si trovano in purgatorio, quando si trovavano sulla terra, in alcuni momenti erano sicure che Dio esiste e in altri no, così ora si trovano in purgatorio. Ecco, interessante questo rilievo. La Madonna spiega a Maria perché alcune anime sono in purgatorio, se credevano in Dio, perché questa fede ha avuto dei momenti di sbandamento, di oscillazione, di incertezza. Ci sono stati dei momenti in cui questa fede ha dubitato dell'amore di Dio e di fronte a questo dubbio Dio chiede all'anima di essere perfettamente purificata. L'anima che ha vacillato, dubitando dell'amore di Dio, si trova a doversi purificare perfettamente per entrare nella gloria. Questa è una grande verità teologica che la Madonna, in modo molto semplice, ha spiegato per come potevano capirlo, erano ancora dei ragazzi in quei primissimi tempi delle apparizioni ai sei veggenti. Poi prosegue ancora Maria dicendo: la loro più grande sofferenza, cioè quella delle anime purganti, è quella di sapere che Dio c'è, che è là e non poter andare da lui. La Madonna ci ha chiesto di pregare molto per le anime del purgatorio, in modo tale che possano andare al più presto in paradiso. Ecco, questa è una testimonianza molto importante, sono parole di profonda intensità che ci fanno almeno intuire qual è la condizione delle anime in purgatorio. Possiamo capire che c'è una vera e propria sofferenza. Una sofferenza che dipende, l'abbiamo detto più volte, dal fatto che il termine ultimo del desiderio dell'anima, cioè Dio, è come se fosse a portata di mano e al tempo stesso irraggiungibile. E sappiamo anche che in questa condizione si fonda quella situazione di duplice, potremmo dire, felicità e dolore, che riguardano l'anima purgante. C'è una felicità perché l'anima si sa salva, perché l'anima corrisponde secondo giustizia alla volontà di Dio, per cui accetta di differire il premio eterno, la beatitudine, il paradiso, sapendo che questa è proprio la volontà di Dio stesso. Però c'è anche una grande sofferenza, perché nel momento stesso in cui, dopo la morte, un'anima è nella verità di se stessa e dal rapporto con Dio, non vorrebbe fare a meno di quel Signore che è il suo tutto. Alla visione che la Regina della Pace ha permesso di avere noi sei veggenti di Medjugorje, si aggiunge l'esperienza che ho poco prima citato di due di loro in particolare, cioè Jacob e Visca, che hanno potuto viaggiare nell'aldilà. Un'esperienza fisica, sensibile. La mamma di Visca, quando è tornata e non li ha più trovati in salotto, ha detto proprio che sono stati assenti per una ventina di minuti. Certo, il tempo e lo spazio sono relativi, ma conta l'altissimo valore teologico che emerge da questa esperienza. Quello che colpisce, proprio nel sentire la testimonianza di Visca e di Jacob, è che il luogo che hanno visitato, andando in purgatorio, era uno spazio non meglio definito, avvolto però da un elemento caratteristico, una grande nebbia, attraverso la quale non riuscivano se non a scorgere appena delle sagome, senza vedere in senso proprio le anime, ma avvertendone soltanto la presenza. Non è facile spiegare il senso di questa nebbia, una nebbia in cui si avvertivano presenze di anime, ma non si vedevano. Forse la nebbia potrebbe indicare il fatto che le anime non possiedono ancora la visione beatifica di Dio e quindi sono ancora come avvolte nella nebbia delle loro imperfezioni che impedisce questa visione. È un po' come se la nebbia fosse il segno di quella purificazione che è in corso attraverso le fiamme d'amore del purgatorio che più volte abbiamo ricordato e citato, seguendo anche la lettura di Santa Caterina da Genova, il suo Trattato del Purgatorio. Oppure la nebbia potrebbe indicare che le anime purganti ancora non sono nella piena carità, non sono nella piena comunione con Dio, dunque non hanno occhi puri a sufficienza per vedere Dio e né per vedere ovviamente le altre anime. Questo lascerebbe intendere che ogni anima purgante non intrattenga particolari relazioni con le altre, al di là ovviamente di quella comunione dei santi che sappiamo per fede intercorre tra le anime della Chiesa pellegrina sulla terra e della Chiesa purgante e trionfante in cielo. Perché un'anima non dovrebbe intrattenere relazioni con altre anime in purgatorio? Ma forse perché anzitutto quell'anima si concentra sulla propria purificazione interiore, quella purificazione che a poco le permette di soddisfare il desiderio che più urge, che è quello di poter incontrare pienamente Dio nella gioia del paradiso. Ecco, un'anima che si concentra anzitutto su Dio come termine ultimo d'amore. Vedete come cambia la prospettiva da questa vita terrena all'ingresso nell'aldilà. Qui, come ricordavo poco prima, Se mi trovo a fare una catechesi sul paradiso, sulla vita eterna, e mi tocca partire dal desiderio di incontrare i propri cari. Ma quando si è nell'aldilà, quando si è inseriti nella dimensione dell'eternità, anche se ci si trovi in purgatorio, la verità sul proprio destino eterno è talmente chiara che l'anima ha un solo desiderio, cioè quello di poter incontrare Dio. E questo viene prima dell'incontro con i propri cari. Badate, non si tratta di un egoismo, ma di un amore vero, perché senza la piena comunione con Dio, che è amore, come potremmo amare perfettamente i nostri cari? Qui si tratta di ricordare quello che già Gesù dice nel Vangelo quando pone le condizioni per la sequela. Dice che nessuno è degno di lui se non lo ama più di quanto ami suo padre, sua madre, suo fratello, sua sorella. Qui si tratta non di odiare i nostri cari, ci mancherebbe, di dimenticarli, di trascurarli, no, si tratta però di preferire colui che è sommamente degno di essere amato prima di chiunque altro, che è Dio. Questo è un punto su cui voglio insistere, perché sovente quando si citano i due comandamenti che riassumerebbero la legge, si mettono quasi sullo stesso piano. Ama Dio e ama il tuo prossimo. Ricordo una volta, mi ero trovato in un oratorio cittadino, in cui c'era questo grande cartellone che diceva ama Dio e il prossimo tuo come te stesso. E ho detto all'animatrice: non è corretto quel cartellone, devi cambiarlo. E perché? Che errore c'è? Ama Dio sopra ogni cosa e il tuo prossimo come te stesso. Guai a noi se corriamo il rischio, oggi ahimè tanto diffuso, di un appiattimento orizzontale. Per cui alla fine amo Dio come il mio prossimo, e questo vuol dire togliere a Dio quella che è la sua prerogativa di trascendenza, di perfezione, e questo vuol dire anche forse ridurre poi questo Dio persona, anzitutto a un insieme di regole, a una morale, a una dottrina sociale, per andare incontro ai fratelli, dimenticandosi che Dio, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, richiede ed esige di essere il primo termine del nostro amore. E questa richiesta è quello che più permette all'anima stessa, creata da Dio e per Dio, di raggiungere la propria felicità. A proposito, cito un'esperienza di un mistico dei nostri giorni, mantenendone l'anonimato, ma ebbi occasione di parlare con questa persona, un uomo di profonda preghiera, che mi raccontava come un giorno, durante il ringraziamento della Santa Comunione, ha vissuto questa esperienza di trovarsi in purgatorio. Dice: era molto particolare, mi trovavo in questa serie di stanze come di vetro, come di cristallo, e una vicino all'altra, come se fosse un insieme, no? Una città quasi di stanzette singole, una persona vicino all'altra, anzi un'anima vicino all'altra. Io non conoscevo in modo particolare quelli che stavano accanto a me, tutte le pareti erano trasparenti. Ogni tanto si apriva questo tetto e passava questo corteo celeste che rapiva le anime finalmente pronte per andare in paradiso. Questa, beh, è una visione simbolica, chiaramente, che vuol dire che cosa? Che probabilmente, insomma, alla fine quello che siamo stati è abbastanza chiaro, a noi stessi e anche agli altri. Quindi c'è una sorta di trasparenza tra le diverse anime, in contrasto con la nebbia di cui parla invece Visca, di cui parla Jacob quando parlano del loro viaggio mistico nell'aldilà. Ma la cosa che mi colpì di più è che quando questa persona terminò il suo racconto mi disse: ma sai qual è la sensazione che mi ha stupito di più? È che quando mi sono trovato di là, io ho capito di essere nell'eternità, di essere in purgatorio, di attendere il mio giudizio, insomma, di capire quando potevo andare in paradiso. Non pensavo più ai miei cari. Il mio unico pensiero era che sarà di me, quale sarà il mio destino eterno. Ecco, questo è importante perché fa capire come di fronte al destino eterno l'anima immediatamente riordina le priorità. Ecco, ancora una notazione voglio fare rispetto alle anime che si trovano in purgatorio, visto che del purgatorio appunto stiamo terminando di parlare. Se le anime si trovano nella necessità di purificare anche la più piccola macchia che dovesse impedire loro di presentarsi dinanzi a Dio in paradiso, sembra difficile credere che la maggior parte dei credenti vada in paradiso direttamente dopo la morte. Piuttosto, la maggior parte delle anime va in purgatorio. Abbiamo già detto come sia plausibile questa attesa per la maggior parte delle anime, in realtà a conforto posso citare un messaggio di Medjugorje datato 2 novembre 1983, allorché la Madonna di Sei Veggenti, la maggior parte degli uomini, quando muore, va in purgatorio. Qui potremmo essere tentati di storcere un po' il naso, essere un po' contristati, ma come, io pensavo che andassero tutti subito in paradiso, no, quella sarebbe la falsa misericordia. In realtà è la vera misericordia che le anime possano prepararsi degnamente all'incontro col Signore. Ma la bella notizia è che se la maggior parte delle anime vanno in purgatorio, e il purgatorio, come abbiamo detto, è uno stato di salvezza, vuol dire che la maggior parte delle anime si salvano. E questa è proprio direi la bella notizia più importante che dobbiamo riferire rispetto a questo messaggio della Regina della Pace. La maggior parte degli uomini, quando muore, va in purgatorio. Significa sì che la maggior parte delle anime non accede direttamente alla gloria del paradiso, ma anche che la maggior parte di queste anime si salvano. E questa è una bella notizia. E dall'altra parte, forse contrasta, forse con quello che sentiamo oggigiorno normalmente, anche quando magari si va in chiesa ad assistere a un funerale, quando si parla del morto, chiunque sia, comunque abbia vissuto, se ne parla nei termini di un'anima che senz'altro ha già incontrato Dio. Ora, bisogna augurarlo a quest'anima di poter essere salva in paradiso. Sicuramente c'è stato un incontro col Signore per quanto riguarda il giudizio particolare che attende ogni anima dopo la morte, per cui quando qualcuno mi chiede: ma che ne sarà di questa persona a me cara che adesso è morta? Io dico: guarda, sicuramente ha già incontrato il Signore. Cosa vuol dire questo? Beh, se c'è stato il giudizio particolare, che immediatamente dopo la morte avviene per ogni anima, è evidente che qualunque anima, una volta morto, il corpo incontra il Signore e poi viene mandata al suo destino, e se è in purgatorio, come accade, lo ripeto, per la maggior parte delle anime, allora è evidente che questa comunione col Signore ha ancora da attendere un pochettino. La Chiesa in realtà ha delle formule di preghiera durante la liturgia esequiale, durante la liturgia funebre, molto precise, perché continuamente il sacerdote dice: preghiamo il Signore che conceda quanto prima quest'anima di entrare nella gloria di Dio. Quindi la Chiesa, quando prega con le orazioni funebri, non dà per scontato che quell'anima sia già in paradiso, ma a volte magari il celebrante, così pensando che sia un atto di misericordia nei confronti dei parenti presenti, dice: sicuramente è già in paradiso. Ecco, a dispetto di quanto dicono i parenti del defunto, o addirittura il prete dal pulpito, non possiamo invece mai essere sicuri di un'anima che sia andata direttamente in paradiso, ben sapendo come una minima imperfezione richiede di passare attraverso quello stato temporaneo di purificazione che è appunto il purgatorio. Due brevissime note: non possiamo essere certi di nessuno che vada direttamente in paradiso. In realtà, coloro che subiscono il martirio in odio alla fede, sappiamo, così ci insegna la Chiesa, che vengono immediatamente purificati nell'anima e vanno subito in paradiso. Poi è chiaro che solo Dio conosce il cuore di queste persone e quindi sa con quale purezza abbiano vissuto questo martirio, abbiano saputo offrire la loro testimonianza, con fedeltà e perseveranza fino all'effusione del sangue. Però non interessa questo aspetto particolare, per cui è vero che la maggior parte delle anime devono purificarsi in purgatorio, ma alcune vanno direttamente in paradiso, tra queste le anime dei martiri. E poi però non è necessario rassegnarsi di fronte alla prospettiva del purgatorio dopo la morte, nel senso che, come mi insegnava un santo sacerdote esorcista ormai scomparso da alcuni anni, una grazia che non solo è lecito, ma è bene e anzi doveroso chiedere al Signore è poter fare il proprio purgatorio già in questa vita. Allora io posso abbreviare il mio purgatorio o addirittura eliminarlo offrendo e soffrendo con pazienza per tutto quello che devo sopportare al presente. Sono quelle famose croci, come diceva Santa Gemma Galgani, anziché preferire la mia croce, devo preferire la tua, Gesù. Cioè, anziché preferire la croce che scelgo io, devo preferire la tua. Io credo che se avessimo la pazienza di fare questa offerta al Signore, sconteremmo gran parte del nostro purgatorio e ci accorgeremmo veramente di quanta misericordia Dio ha nei nostri confronti e di quale valore salvifico abbiano quelle piccole, grandi sofferenze e insomma, le difficoltà che incontriamo nel cammino quotidiano. Ho citato il purgatorio come un luogo in cui potremo incontrare i nostri cari e in realtà non avremo un rapporto così, come si può dire, diretto con loro, perché le anime saranno anzitutto impegnate a occuparsi della propria salvezza. Questo non toglie, lo ripeto, che i nostri cari che sono in purgatorio già ora possano pregare e intercedere per noi. Questo non toglie del punto più importante, lo vedremo parlando del paradiso, che invece in paradiso ci sia la perfetta comunione con Dio e con i nostri cari nell'amore di Dio. Lì sì varrà l'affermazione in cielo ritroveremo i nostri cari. In purgatorio rimane il dubbio, no? Che queste anime avvolte nella nebbia anzitutto si concentrino, come doveroso che sia, sulla propria opportuna purificazione prima di incontrare Dio e anche i propri cari. In paradiso ci sarà invece la piena comunione. Però prima di concludere, ancora un punto vorrei affrontare in questa occasione e riguarda la dimensione temporale dell'aldilà. Perché? Perché il purgatorio, l'ho detto prima, è uno stato temporaneo di purificazione, non dura in eterno, è la purificazione che in un certo tempo un'anima deve affrontare. Ma se il purgatorio è temporaneo, come insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica, allora nell'aldilà esiste il tempo. Il fatto che il purgatorio sia temporaneo, lo ripeto, è abbastanza intuitivo, perché se tale condizione delle anime ha il fine di raggiungere la loro purificazione, va da sé che questo scopo deve essere raggiunto o prima o poi, cioè entro un certo tempo. Al tempo delle indulgenze, prima di Paolo VI, si faceva un gran parlare di anni, mesi, giorni e settimane, di indulgenza, proprio insistendo sull'aspetto del tempo del purgatorio, magari in maniera un po' troppo contabile o ragionieristica. Poi si è deciso di semplificare il tutto in maniera, io credo, molto opportuna, parlando di indulgenze totali o parziali, senza più andare a quantificare il tempo, e forse si è un po' persa quest'idea che il purgatorio abbia una durata temporanea, però è abbastanza evidente che deve essere così, deve finire entro un certo tempo. Forse meno intuitivo è invece il pensiero relativo al permanere del tempo quando si parla di inferno o paradiso, che per la loro condizione di eternità fanno pensare che non ci sia più, qui faccio un po' un gioco di parole, non c'è più spazio per il tempo. Cioè se l'inferno è eterno, se il paradiso è eterno, è ciò che è eterno. Come fa a coesistere con la temporalità? Ecco, le cose non sono così semplici. Da una parte è vero, nell'eternità viene sicuramente meno la corruttibilità, la degenerazione delle cose, che sono caratteristiche scandite dal tempo lungo il corso della nostra esistenza terrena, lungo il corso della storia del mondo. Però abbiamo visto che di tempo in realtà nell'aldilà bisogna parlarne almeno per quanto riguarda il purgatorio, che è appunto una condizione temporanea delle anime. A questo si aggiunge poi che quando parliamo del giudizio che attende l'anima dopo la morte, distinguiamo il giudizio particolare che avviene subito dopo la morte da quello universale che interesserà tutti gli uomini e che avverrà al momento della parousia, quando Cristo tornerà per giudicare l'universale umanità, ci sarà la fine del mondo, il ritorno del Figlio di Dio nella gloria, la sconfitta definitiva del maligno. Possiamo parlare di uno stato intermedio, così si esprime il Catechismo, indicando il tempo che intercorre tra i due giudizi, tra quello particolare e quello universale, e tra il tempo che separa la mia morte e la parusia, cioè il ritorno di Cristo e la fine del mondo. Quindi vedete che c'è un altro elemento di temporalità. Quindi, primo c'è il purgatorio che è temporaneo, poi c'è il tempo che separa il giudizio particolare da quello universale. Ora verrebbe da dire, ma come si può parlare di tempo in una dimensione che è eternità? Beh, è sufficiente non contrapporre i due elementi e intendere l'eternità come un tempo senza fine, anziché intendere l'eternità come una fotografia che fissa quell'istante per sempre, un per sempre immobile, pensiamo a un tempo senza fine. E in questo modo si risolve il contrasto e c'è spazio per la temporalità. In questo tempo senza fine ci sono alcune cose che iniziano e finiscono e altre che non finiscono mai. Ma pensate come in fondo nella eternità di Dio trova spazio la nostra vita terrena, che ha un inizio e ha una fine. Trova spazio l'esistenza e la vita immortale della nostra anima, che ha un inizio ma non ha una fine, e poi trova spazio la stessa eternità di Dio, che appunto è senza inizio e senza fine. Ora, quando pensiamo all'incarnazione, ci viene molto utile ripensare a quello che scrive San Paolo nella lettera ai Galati. Al capitolo 4, versetto 4, dice: Quando venne la pienezza dei tempi, Dio mandò suo figlio nato da donna. E qui troviamo quella stessa indicazione che c'è anche nel prologo di Giovanni, capitolo 1, versetto 14, il Verbo si è fatto carne. Cosa vuol dire? Il Verbo che è Dio generato da Dio prima del tempo si fa carne. Vuol dire che l'Eterno entra nel tempo. Ecco, con questa incursione dell'eternità di Dio nel tempo dell'uomo, una, direi, unione che viene suggellata dall'unione ipostatica tra la natura di Dio e quella dell'uomo nell'incarnazione, appunto, cessa il contrasto tra l'eterno e il tempo. E queste due dimensioni rimangono per sempre in rapporto tra di loro. Pensate allo stesso Cristo risorto che assume un corpo umano in un certo momento della storia, 2000 anni fa, e che questo stesso corpo glorificato e risorto mantiene per sempre in paradiso. Ancora voglio ricordare quello che la Congregazione per la Dottrina della Fede, l'ex Sant'Uffizio, nel 79 ha stabilito in un documento su alcune questioni di escatologie, interrogandosi sul destino dell'anima dopo la morte e precisando alcune realtà molto importanti che ci spiegano come esiste una dimensione temporale anche nell'eternità. Anzitutto questo documento, che si intitola appunto Alcune questioni di escatologia, stabilisce che dopo la morte sopravvive e sussiste un elemento spirituale, dotato di coscienza e volontà, in cui l'io umano permane. E questo viene designato con la parola anima. Quindi, prima cosa, muore il corpo, ma rimane l'anima. Questo io aspetta di ricongiungersi in unità al corpo glorificato alla fine del mondo. Ecco quindi che c'è un tempo di attesa, uno stato intermedio dalla mia morte alla fine del mondo, dal giudizio particolare alla resurrezione dei corpi. L'anima è in una dimensione di attesa, quindi temporale. E poi si precisa, quindi senso che la Chiesa preghi per i defunti, se tra morte e parusia c'è una condizione intermedia, quello è lo spazio per la preghiera. Se c'è una condizione di purificazione temporanea, è evidente che possiamo pregare per abbreviare il purgatorio o per eliminarlo. Ancora una volta un discorso che include l'orizzonte temporale come suo fondamento. E infine in questo documento di escatologia del 79 si spiega che tra le singole morti e la parusia c'è una distinzione temporale, tranne che per la Vergine Maria che è già ora assunta in cielo con anima e corpo glorificati. Maria è la primizia della resurrezione, ma per tutti gli altri c'è una separazione temporale. Allora, alla luce di quanto detto fin qui, posso intendere, dunque in senso metaforico, l'equivalenza tra la mia morte e la fine del mondo. Posso dire quando morirò finirà il mio mondo. Però non ci sarà ancora la fine dei tempi, non sarà ancora la fine del mondo universale, non sarà ancora il ritorno di Cristo. E dopo la parusia, potremmo chiederci? Cioè, se rimane un orizzonte temporale nel purgatorio per ogni singola anima, perché il purgatorio dovrà avere una fine, quindi c'è un tempo che scorre. Se rimane un tempo tra la singola morte e la fine del mondo, ma e dopo la resurrezione universale, quando tutti i corpi risorgeranno, le persone si ricostituiranno in unità, anima e corpo, nella gloria di Dio oppure nella dannazione eterna. Possiamo dire che allora verrà meno il tempo? No. In realtà, queste ovviamente sono dottrine più di opinione teologica che non dottrine di fede, si può dire che il tempo rimarrà anche in quella dimensione, perché resterà sempre e comunque la misura con cui noi ci rapportiamo a livello di dimensione del cuore agli altri. Come non si può appiattire l'eternità a un singolo istante immobile, facendo di fatto coincidere, come qualcuno vorrebbe, il giudizio particolare con quello universale, possiamo dire che il momento della mia morte non coincide con la parousia. Rimangono momenti temporalmente distinti e così pure il tempo rimane anche dopo la resurrezione dei corpi, perché in questa eternità noi ci relazioneremo a Dio. Allora possiamo dire viene meno il tempo della degenerazione, viene meno il tempo della corruzione, ma non viene meno il tempo della relazione. Potremmo dire che se Dio è amore, l'amore è fatto prima di un dono gratuito, poi di una corrispondenza. Questo prima e questo poi scandiscono i tempi dell'amore. E questo mi porta a dire la bellezza di una vita che continua. Sovente, quando magari pensiamo che non sia così affascinante immaginarsi un destino di beatitudine eterna in paradiso, io credo che risentiamo del fatto che immaginiamo il paradiso come una realtà immobile, una realtà nella quale non c'è più spazio per tutto quello che ha riguardato la nostra vita, la nostra dimensione di conoscere, amare, soffrire, desiderare sulla terra. Ma noi sappiamo che in questa terra gran parte degli aspetti della nostra vita anticipano quella che sarà la nostra beatitudine eterna. E come allora qui amiamo nel tempo, cresciamo nell'amore, possiamo dire che anche nell'eternità non ci sarà mai la fine di questo tempo di crescita, di questo tempo in cui la comunione d'amore con Dio e con tutti i nostri cari, che in Dio potremo conoscere e amare, andrà approfondendosi. Concludo ricordando ancora una distinzione importante. Spesso, quando parliamo della vita dopo la morte, parliamo della eternità in cui noi entreremmo. In realtà è bene precisare, l'ho fatto prima in maniera, ecco, forse un po' di sfuggita, adesso lo voglio fare in maniera più precisa. È bene ricordare che l'eternità come tale attiene solo e soltanto a Dio, cioè alla Santissima Trinità. Nel tempo hanno avuto un inizio preciso tutte le creature, gli angeli, gli uomini, tutti gli elementi naturali. E allora potremmo dire che, come gli angeli, anche gli uomini, anzitutto la loro anima e poi il loro corpo glorificato, entreranno in una dimensione di immortalità. La differenza tra eternità e immortalità è importante. Eterno è ciò che non ha né inizio né fine. Ed è soltanto di Dio questa caratteristica. Immortale è ciò che ha un inizio, è creato, ma non avrà mai una fine. Questo è tipico della nostra anima. Era proprio vero quello che diceva quel bel titolo di uno dei primi libri scritti su Chiara Corbella Petrillo, Siamo nati e non moriremo mai più. Questo è esattamente il destino che attende la nostra anima, questo è il destino che ci spalanca l'opportunità in paradiso di incontrare i nostri cari. Ecco, ci lasciamo adesso con una breve pausa musicale, poi ci ritroviamo con le vostre domande che, come sempre, vi prego siano brevi e in tema con quanto presentato. A più tardi. Pronto? Mi chiamo Manuela e telefono dal Ticino. Grazie. Volevo chiederle, quando durante la Santa Messa c'è la consacrazione, poi il sacerdote dice e preghiamo anche per i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella pace del Signore. In più facciamo l'eterno riposo, no? Secondo me mi sembra che non è una cosa tanto giusta, visto che le anime sono vive e vegete proprio, essendo che soffrono al purgatorio quello che devono soffrire, no? E seconda domanda volevo chiederle, le messe gregoriane, è giusto che quando le fai dire per una persona, le persone vanno in paradiso dopo queste messe? La ringrazio di Grazie. cuore. Grazie per queste Arrivederci. due domande. Grazie Emanuela, sono molto interessanti. Allora, intanto parto dalla prima. È vero che a volte la Chiesa, da buona madre, usa il linguaggio che i figli sono capaci di comprendere. A volte magari derogando a una certa esattezza terminologica, rischiando magari un'imprecisione. È vero, le anime non si addormentano. E quando diciamo ai nostri fratelli defunti che si sono addormentati nella pace di Dio, intendiamo dire che sono morti nella pace. Quando si chiudono gli occhi alla salma, è un modo per dire adesso puoi dormire, adesso il corpo riposa e riposa nell'attesa della resurrezione. Certo, l'anima non riposa, l'anima non si addormenta, l'anima immediatamente nella sua eternità, ma si dice proprio fratelli e sorelle che sono addormentati nella pace di Dio. Significa che hanno concluso la loro esistenza terrena, che hanno affrontato l'ultima agonia, cioè la morte, e muniti del conforto dei sacramenti, ci cioè hanno fatto una morte che lascia pensare che siano salvi. Salvi vuol dire in purgatorio più che in paradiso, probabilmente, secondo tutto quello che abbiamo detto in questa occasione, però, essendo salvi, possono ottenere beneficio dalle preghiere di quanti vogliono loro bene. E se fossero invece anime, destinate ormai alla dannazione, sappiamo che non varrebbe più la pena proprio di pregare. Una particolare forma di indulgenza che è rimasta, nonostante la riforma che già citavo del 68 di Paolo VI, è quella legata alle messe gregoriane. Si tratta di 30 messe che devono essere celebrate consecutivamente in favore di un'anima, con intenzione esplicita. Per questo che a volte ci si rivolge più che magari al parroco che ha già tante intenzioni, a parrocchie, istituti, conventi o monasteri dove ci sono dei religiosi che si avvicendano, che magari celebrano più messe durante la giornata, pensiamo ad esempio ai vari santuari, quindi si è sicuri che per 30 giorni, ogni giorno, viene applicata questa intenzione. E questa è legata alla richiesta che quest'anima, per il merito di queste 30 messe, possa ottenere l'indulgenza plenaria. Io le raccomando fortemente queste messe gregoriane perché, a differenza di ogni altra indulgenza che possiamo lucrare noi vivi in favore dei defunti, che sono, lasciatemi dire, indulgenze incerte, perché uno può dire: io mi sono confessato, ho partecipato alla messa, mi sono comunicato, ho detto le mie preghiere, però poi c'è quella ultima condizione che dice: bisogna che l'anima sia disposta a rifiutare anche il più piccolo peccato veniale. Io di fronte a questa condizione tante volte mi sono detto: quanto è difficile, Signore, poter dire in tutta onestà e coscienza, rifiuto volontariamente anche il più piccolo peccato veniale. Allora uno rimane un po' titubante, incerto, mentre le messe celebrate dal sacerdote in persona a Cristi hanno un valore oggettivo che proprio può contribuire a donare questa indulgenza plenaria all'anima che ne riceve il beneficio. Quindi è una pratica che raccomando vivamente per i defunti appena questi vengono a mancare. Pronto? Sì, pronto, buonasera, sono in Buonasera. linea? Sì, Sì, certo. buonasera, sono Luigi di Torino. Benvenuto. Buonasera, buonanotte. Allora, volevo dirvi, io nutro un certo scetticismo nei confronti dell'idea della resurrezione dei corpi, nel senso che mi è facile immaginare una resurrezione dell'anima che può entrare in una dimensione completamente diversa dalla nostra vita terrena, ma ho questo dubbio sulla risurrezione dei corpi, cioè, per esempio, chiedo molto, molto semplicemente, c'è cioè una domanda molto terra-terra, ma la Chiesa come intende la risurrezione dei corpi, cioè nel senso in quale stato e condizione ed età si immagina la risurrezione di un corpo, nella condizione di miglior maturità della vita, ma quello che il mio dubbio è, per esempio, due gemelli che siano morti in età molto diverse, o un padre che sia morto più giovane di un figlio, quindi come si ritrovano nell'aldilà? Che cosa la Chiesa immagina come condizione definitiva nell'eternità per il corpo di Certo. un uomo che, insomma, che si trovi poi nella condizione, insomma, no, dell'immortalità di cui si Certo. parlava, precedentemente. Grazie per questa domanda, è molto interessante e più avanti dedicherò una trasmissione a questa questione specifica, ma l'anticipo in sintesi molto volentieri. Anzitutto in generale perché è bene credere alla resurrezione dei corpi? Perché ce l'ha detto Gesù? Perché Gesù risorge come noi risorgeremo con un corpo glorificato, perché la Madonna è stata assunta in cielo con un corpo glorificato. E poi per un episodio che mi è capitato alcuni anni fa quando parlando proprio di questi temi in una catechesi in un paese del Monferrato, delle mie zone, alla fine venni fermato da un signore un po' anziano che mi disse: "Ma lei è sicuro che risorgeremo con un corpo?" Dice: "Sì, ma questo è l'insegnamento della dottrina cattolica." "No, ma lei è veramente sicuro?" Mi incalzava, no? Un po' pressante, un po' preoccupato. Ho detto: "Ma sì, ma perché ci tiene così tanto?" E questo mi disse: "Perché io ho perso mia figlia Antonella di 17 anni per un incidente e desidero proprio riabbracciarla." E che a volte penso che se andassimo a vedere anche le esigenze più belle dello spirito umano che desidera entrare in relazione con i propri cari, troveremmo le ragioni teologiche di tante verità dottrinali che possono sembrarci un po' astratte quando le contempliamo a sé stanti. E allora entro nello specifico. Il Catechismo della Chiesa Cattolica ci spiega che i nostri corpi glorificati saranno incorruttibili. Saranno corpi rivestiti di incorruttibilità, come insegna San Paolo. Non si dilunga molto a dire in che condizioni saranno corpi perfetti, chiaramente non più soggetti alla degenerazione, alla corruzione, alle impellenze, ai bisogni e ai limiti della nostra condizione terrena. Ma rifacendosi a un versetto di San Paolo, nella lettera agli Efesini, capitolo 4, versetto 13, dove dice che tutti saremo nella condizione della piena maturità di Cristo, ecco che San Tommaso, commentando questo versetto, dice: "E beh, allora il nostro corpo glorificato sarà come il corpo di Cristo. Cristo muore a 33 anni, tutti avremo 33 anni." E questa è un'idea molto bella, è proprio nell'essere nell'età adulta, l'idea dell'essere giovani, pieni di salute, di avere anche questa idea di una bellezza che trova il suo livello più alto di splendore proprio nella eternità. E a me conforta molto pensare che in questa prospettiva tutti quegli embrioni che sono stati abortiti in maniera spontanea o procurata e non hanno potuto vedere la luce, potranno, come giovani adulti, riabbracciare le proprie madri, proprio in questa condizione di eternità e di resurrezione. Pronto? Pronto, dottor Manetti. Buonasera. Buonasera. Sì, sono Francesca, chiamo dalla Sardegna. Ascolti, mi aiuti a capire una cosa. Dunque, le persone in anima e corpo, dopo la morte, hanno una loro specifica collocazione, ovviamente anima, inferno, purgatorio o paradiso. Però ecco, mi è capitato anche facendo catechismo e non ho saputo rispondere. Questo, cioè, allora, le anime del purgatorio, per esempio, o quelle del paradiso, o quelle dell'inferno, possono raggiungerci, diciamo anche, dunque, come presenza, disturbare o comunque presentarsi alle persone vive qui sulla terra? Cioè, che collocazione hanno? E poi se ci sono queste manifestazioni, perché, come? Cioè, non so, mi aiuti a capire, o mi consigli anche un libro scritto da lei, perché l'apprezzo tantissimo, che mi può aiutare a capire questa collocazione delle anime dopo la morte. Grazie, l'ascolto per radio. Grazie per questa domanda, che sicuramente non è soltanto la curiosità dei bambini e che si può rincontrare a catechismo, penso sia una domanda che può nascere anche in noi adulti, ma le anime, magari dei nostri cari, si possono manifestare? Ecco, possono se Dio lo vuole o lo permette. Le anime di loro iniziativa non possono fare questo. È vero che in tutta questa nostra serie di conversazioni sull'aldilà ho più volte insistito sul dire non consideriamo il purgatorio, l'inferno e il paradiso anzitutto come luoghi fisici perché pagheremmo un prezzo troppo alto alla nostra sensibilità, alla nostra umanità e ne perderemmo in precisione teologica. Pensiamo a condizione dell'anima. Però questo non significa che queste anime stiano in mezzo a noi come una condizione parallela. Anni fa aveva avuto un buon successo un film con Bruce Willis, Il Sesto Senso, dove si parlava di questo bambino che vedeva i morti tutti i giorni intorno a sé. Effettivamente era una rilettura un po' esoterico-spiritualistica di un dramma che teologicamente va collocato in una dimensione ben diversa. L'anima può manifestarsi, certo. Come può manifestarsi la Vergine Maria agli uomini senza abbandonare il paradiso? Come poteva manifestarsi Gesù a Santa Gemma Galgani piuttosto che a Santa Faustina senza abbandonare il paradiso? Le anime rimangono in quello che è il loro destino di salvezza o dannazione e da lì possono però manifestarsi, cioè Dio permette loro o a volte ordina loro di rendersi presenti. Ricordo quel caso di, mai penso una trentina di anni fa, di queste due colleghe in Germania, giovani donne, e una poi delle due ritorna in Svizzera da dove proveniva e a distanza di un paio d'anni sente della notizia della tragica scomparsa dell'altra in un incidente di macchina e niente, la sera quando in camera si mette a pregare per l'amica ormai morta. Improvvisamente si manifesta accanto a lei l'anima di questa sua amica, tutta nera, scura in volto, che le dice: "Non pregare per me, io sono all'inferno". E quest'anima svela che per obbedienza a Dio è stata mandata per spiegare all'anima di questa sua amica che l'inferno esiste e come a volte ci si vada un passo per volta, giorno per giorno. E quest'anima ovviamente non avrebbe voluto manifestarsi, non avrebbe voluto dare questo insegnamento salutare, ma Dio l'aveva obbligata. Ecco, quindi questo sia il punto che possiamo tenere presente. Io raccomando, al mio testo, oltre La vita eterna spiegata a chi cerca, è molto bello, tutto quell'insieme di testi pubblicati da Maria Simma, che ha avuto un particolarissimo rapporto con le anime del purgatorio, che spiega come queste si manifestassero, a volte interagendo anche sensibilmente con i viventi, ma sempre rimanendo anime ormai introdotte nella loro eternità, appunto di purgatorio come anticamera del paradiso. Pronto? Buonasera, sì, Fabio da Cosenza, buonasera. No, Buonasera. io partendo dal presupposto che l'anima è immortale, chiedevo se era possibile anche parlare di reincarnazione o di metempsicosi, nel senso che comunque prescindendo dal corpo, dalle somiglianze anche fisiche che in natura si possono avere nel corso dei millenni, nel corso degli anni, se l'immortalità dell'anima preclude o meno la possibilità di una reincarnazione. Grazie. Non è tanto l'immortalità dell'anima che possa precludere la reincarnazione, perché chi la sostiene proprio di immortalità dell'anima parla. È proprio l'insegnamento di Gesù sulla preziosità della vita terrena dell'uomo. In tanti passaggi del Vangelo Gesù ci esorta in maniera amorevole, ma anche ferma, perentoria, affinché possiamo operare per la nostra salvezza in questa vita, perché non possiamo aggiungere un'ora a questa vita che lascia intendere essere l'unica possibilità di salvezza. Tutte le volte che andiamo a confrontarci con l'insegnamento dei padri, della scrittura, o anche con i messaggi di Medjugorje, nei primissimi tempi la regina della pace ha detto: è sbagliato insegnare che dopo la morte l'anima si reincarna. Dopo la morte non si vive più. E questo, da una parte, diciamo che è abbastanza logico, nel senso che il nostro io è fatto di ricordi, memorie, identità, e nella reincarnazione uno non si ricorda chi è. E allora che senso avrebbe? Sì, i miti orfici, la metempsicosi pitagorica, piuttosto che i miti platonici, ci fanno pensare che un'anima attraversa vari stati di vita, si purifica e poi entra in una sorta di beatitudine, ovviamente in senso pagano. Ma Gesù ha valorizzato l'identità umana molto di più, presentando questa vita come l'unica opportunità per la salvezza, dicendo: qui e ora ti giochi la tua salvezza eterna, una sola vita, come una sola è l'opportunità che abbiamo, amando il Signore, di desiderare e direi proprio accogliere, perché dono gratuito, quella salvezza che Dio vuole darci. La reincarnazione oggi affascina tanto anche il pubblico occidentale, perché sicuramente esprime un positivo bisogno di spiritualità, il bisogno di recuperare l'idea dell'anima, ma direi si manca il bersaglio, perché si finisce per ridurre l'anima come un ospite privilegiato di occupazioni, di case, di abitazioni che non hanno invece alcun valore. Si svilisce il corpo diventerebbe un involucro della realtà dell'anima. Contro questo spiritualismo sta invece la dottrina personalista della Chiesa Cattolica, che valorizza l'anima immortale e il corpo destinato alla resurrezione. Bene, grazie. Mi dicono che il tempo a nostra disposizione è terminato. Io vi ringrazio tantissimo per l'ascolto, la partecipazione e le domande davvero sempre molto, molto stimolanti. Invito a scrivermi, a raggiungermi attraverso i diversi social per proporre tematiche che desiderate approfondire e come sempre chiedo preghiere, in modo particolare per la Chiesa, per i pastori, per il Santo Padre e un ricordo particolare per tutti i malati e i sofferenti della grande famiglia di Radio Maria. Un cordiale saluto a tutti da parte di Diego Manetti.